Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie della cortese attenzione, grazie a Pierfranco Vitale e a Mozart per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima, alla medesima ora. Buona giornata a tutti. Era